GR24, il sole 24 ore. Monti ha evitato il tracollo dell'Italia e dell'Europa, la ripresa è alla nostra portata. 5 Stelle, Fabia accusa Casaleggio, non c'è democrazia nel movimento. Strage di famiglia in Francia, interrogato il fratello di una delle vittime, avevano liti per denaro. Tragedia a Lampedusa, naufraga un barcone, almeno una vittima, ma il relitto non si trova. Buongiorno dalla redazione, da Laura Bettini. In apertura di questo giornale radio andiamo ovviamente a Bari, dove oggi ha lungamente parlato il Presidente del Consiglio Mario Monti, molto della situazione del Mezzogiorno, ma anche dell'Italia, dell'Europa e del lavoro del Governo. Jacopo Matano, buongiorno, ripercorriamo insieme questo intervento. Buongiorno, sì, un intervento incentrato sulle priorità dell'Italia del suo Mezzogiorno, quello del Presidente del Consiglio che ha inaugurato la 76esima Sera del Levante qui al Teatro Petruzzelli di Bari. Non si è risposto alle critiche che ha ritenuto condivisibili rivolte all'azione del Governo da parte delle istituzioni locali presenti, affermando: abbiamo evitato il tracollo grazie al rigore. Sentiamo il primo passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio. Come abbiamo sentito, il primo passaggio, l'Italia ha evitato il tracollo, dice il Premier Mario Monti, ma soprattutto Monti ha parlato anche di quella che è il futuro dell'Italia, quello che è... Jacopo, sei di nuovo in linea? Sì, ecco. Il futuro dell'Italia, dicevamo, l'Italia che può ripartire, no? Sì, non sarebbe stato pensabile, ha aggiunto poi il Presidente del Consiglio, che l'Unione Europea e la BCE compresa si potessero orientare alla crescita se quel paese da cui veniva vista dipendere la sorte della zona euro, cioè l'Italia, avesse proseguito nella sua scarsa consapevolezza. E dopo un passaggio sull'IVA, su cui ha ricordato il Premier sono stati sbloccati 4 miliardi di euro per le bonifiche dei siti industriali, ora l'Italia e il Sud, ha aggiunto Monti, sono ripartiti. Sentiamo. Il Presidente del Consiglio quindi dice, Jacopo, la ripresa è dentro di noi, ribadisce la ripresa è dentro di noi. Esattamente, Monti è il primo capo del governo a partecipare all'inaugurazione della Fiera del Levante dal 2008, occorre ricordarlo, ed è arrivato in una Bari blindata accompagnato dal Ministro della Coesione Territoriale Barca. Fuori dal teatro il sit-in dei sindacati studenteschi e dei partiti di opposizione che chiedono un cambio di rotta delle posizioni su scuola, ambiente e lavoro. A voi. Grazie a Jacopo Matano da Bari. Continuano intanto però a condividere l'entusiasmo del Premier per il piano anti-spread della BCE, i mercati mondiali. Deborah. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo anche oggi una corsa da parte dei listini del vecchio continente che già ieri, dopo la conferenza stampa di Mario Draghi, avevano guardato appunto con grande entusiasmo al piano anti-spread varato dalla BCE e comunicato ieri da Draghi nei dettagli. Ieri Milano ha chiuso con un rialzo di oltre 4 punti, oggi c'è più 2% sul FTSE MIB, più 1,13% a Parigi, Francoforte più 0,8%, Londra più tranquilla più 0,22%, oltre 1,5 punti di rialzo sulla Spagna, ma molto bene stamattina sono andate anche le piazze asiatiche, con Hong Kong che ha chiuso con un rialzo del 3%, Shanghai più 4%, ieri sera Wall Street sul Nasdaq è tornato ai livelli che non registrava da 12 anni a questa parte, per cui c'è naturalmente un consenso generale da parte dei mercati, soprattutto dei mercati obbligazionari, che erano quelli dai quali si attendeva l'effetto più forte da parte delle misure della BCE. Lo spread fra BTP e Bund stamattina è arrivato a 344 punti base, livello che non vedeva da inizio aprile, è risalito adesso leggermente a 352, ma il mercato diciamo che si accontenta assolutamente di questo livello. Speriamo che il clima non cambi nel pomeriggio, quando dagli Stati Uniti arriverà il rapporto sull'occupazione americana di agosto, a più tardi. Grazie a Deborah Rosciani. A proposito ancora ancora della decisione della BCE. Stefano Folli dice deve far riflettere la politica e i partiti italiani. Il punto di Stefano Folli. Certo, la banca centrale non può sostituire la politica, come dice la Merkel e come diciamo tutti. Tuttavia può dare alla politica, soprattutto a quella italiana che ne ha molto bisogno, una cornice salda entro cui muoversi, un vincolo dal quale non può prescindere. E sotto questo aspetto l'intervento di Draghi ha cambiato lo scenario politico. Da oggi ancora più di come fosse fino a ieri non sono più consentiti alibi e fughe in avanti. Si sa quali sono i problemi, si sa quali sono gli impegni per stare in Europa. La domanda è se le forze politiche saranno in grado di sostenere questa decisiva prova di maturità. Sono le stesse forze politiche che non riescono nemmeno a cambiare la legge elettorale, le stesse a cui il Presidente della Repubblica ha rivolto parole gravi, invitandole ancora una volta a rinnovarsi, ad aprirsi, a far entrare aria nuova nelle stanze chiuse. Come possono questi partiti, fra pochi mesi, essere in grado di corrispondere alla sfida che Mario Draghi ha messo sul tavolo? Magari sostituendo Mario Monti alla presidenza del Consiglio. Ecco, questo è il quesito, per ora senza risposta, che ci accompagnerà nell'imminente campagna elettorale. A proposito di questa famigerata politica italiana, c'è grande dibattito sulle dichiarazioni del grillino Favia, raccolte fuori onda da La Sette. Ne parliamo tra pochissimo, però... Ne parliamo tra pochissimo, parliamo adesso di politica americana. Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for President of the United States. La voce che sentite è quella del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che stanotte ha accettato alla convention di Charlotte la nomination democratica per il 2012. Sentiamo Mario Platero. Barack Obama ha raggiunto il suo obiettivo, è riuscito a mobilitare la convention democratica di Charlotte, ha chiesto di essere rieletto e soprattutto ha potuto spiegare molto più nel dettaglio, devo dire, di quanto abbiano fatto i repubblicani, quali sono le sue idee, i suoi progetti, che cosa vuol fare, magari non contenuti troppo dettagliati, ma senz'altro una visione più articolata. Il presidente non ha dovuto affrontare dettagli specifici di quello che ha fatto in questi quattro anni, perché sul piano economico lo ha fatto per lui Bill Clinton il giorno prima. Su quello della politica estera, un tema importante su cui tra l'altro il Presidente ha il 55% di indice di ingradimento contro il 46% di media e contro il 44% in materia economica, in politica estera dicevo il lavoro lo ha fatto per lui Kerry, John Kerry, il senatore democratico, il presidente della commissione esteri al Senato, che lo lanciò nella galassia della politica nel 2004 alla convention di Boston. I risultati di politica estera ci sono, non c'è più Gheddafi in Libia, il mondo arabo si muove verso la democrazia, Osama Bin Laden è stato ucciso, c'è un processo per il disarmo nucleare, cose, ha detto Obama, che i repubblicani non seguirebbero. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, a Charlotte, alla Convention Democratica. E ovviamente se ne riparlerà in America 24 di oggi alle 13.45. Ma restiamo all'estero, a questo punto la strage sulle Alpi francesi, ci sono sviluppi, sentiamoli. Potrebbe esserci una faida di famiglia legata a questioni di soldi all'origine del massacro di Annecy sulle Alpi francesi. Una delle piste seguite dagli inquirenti porta al fratello di Saada Lilly, l'ingegnere aerospaziale anglo-iracheno ucciso in auto con la moglie e la suocera. Secondo quanto riferito dal procuratore di Annecy, i due fratelli avrebbero avuto un litigio per questioni legate ad una cospicua eredità di famiglia. L'informazione, ha spiegato il magistrato, è arrivata dalla polizia britannica, davanti alla quale l'uomo si è presentato spontaneamente per difendersi da qualsiasi coinvolgimento. L'altra pista di cui si è avuta notizia chiama in causa invece i servizi segreti. Il Daily Mail ha scritto infatti che l'ingegnere aerospaziale era stato spiato dagli 007 britannici nel 2003, durante la guerra in Iraq. E gli inquirenti ipotizzano che il killer non fosse uno solo. È fuori pericolo intanto la più grande delle due sorelline sopravvissute alla strage, costata la vita anche a un ciclista inglese, probabile testimone casuale. La più piccola, 4 anni, rimasta per ore sotto i corpi senza vita della mamma e della nonna, è ancora sotto shock, non è stata in grado di fornire nessun elemento utile alle indagini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un altro caso che ha attratto l'attenzione internazionale è quello della bambina pakistana che era stata incarcerata dalla metà di agosto per blasfemia. Ebbene, torna in libertà. È tornata in libertà su cauzione Rijma. La bambina cristiana affetta da handicap era in carcere dal 16 agosto con la pesante accusa di blasfemia per aver bruciato dei versetti del Corano, un reato per il quale in Pakistan si rischia anche l'ergastolo. Una decisione attesa dopo la svolta arrivata lo scorso fine settimana, quando a finire in carcere era stato proprio l'imam che aveva denunciato Rijma. Sarebbe stato il religioso che vive nello stesso quartiere infatti ad aver costruito false prove a carico della bambina. In particolare, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, avrebbe infilato alcune pagine del Corano in mezzo ai fogli bruciati. Oggi, in un'udienza ad Islamabad, il giudice ha dunque accolto la richiesta di libertà su cauzione presentata dai difensori di Rijma, che ora farà ritorno nella periferia povera della città. Gli avvocati, tuttavia, temono la reazione degli estremisti islamici in un paese dove il 97% dei 180 milioni di abitanti sono musulmani. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo adesso a Lampedusa. C'è stato un altro naufragio con una certa dose di giallo, però dopo una telefonata di richiesta di soccorso, i soccorritori hanno raccolto numerosi decine di superstiti, ma non hanno trovato traccia del relitto, almeno finora. Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te gli ascoltatori. Come dicevi, c'è stato un naufragio al largo di Lampedusa, 10 miglia circa dall'isola siciliana, e quindi nella notte chiaramente tutti i soccorritori dalla Guardia Costiera alla Guardia di Finanza e anche delle navi militari della NATO sono andate, hanno cercato di soccorrere queste persone. 56 sono i sopravvissuti finora, tra cui una donna che è incinta. È stato recuperato in mare un cadavere, decine, c'è chi dice più di 40 invece i dispersi. È un bilancio chiaramente provvisorio, il naufragio è avvenuto nella notte. Secondo i superstiti, sull'imbarcazione, che appunto della quale appunto non si sa più nulla, è praticamente sparita, forse si è inabissata, nell'imbarcazione vi erano un centinaio di persone, qualcuno parla addirittura di 150, e quindi stanno cercando di cercare le persone che mancherebbero. Ne parleremo alle 13.30 in Italia in Controluce con Maria Piera Ceci, abbiamo sentito la Guardia di Finanza, sentiremo il sindaco e abbiamo l'analisi di Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. E ancora una buona giornata dalla redazione, da Laura Bettini. Notizia del giorno però è anche quella che riguarda il Movimento 5 Stelle. Il grillino Favia infatti ha accusato Casaleggio di, in un fuori onda di La 7, non c'è democrazia. Lui risponde: non abbiamo mai definito le liste per le comunali e regionali. Servizio. Scuotono il Movimento 5 Stelle le rivelazioni di Giovanni Favia. Nel fuori onda di un'intervista alla trasmissione Piazza Pulita, il consigliere regionale grillino, eletto in Emilia-Romagna, si è lasciato andare rivolgendo accuse pesanti a Gian Roberto Casaleggio, l'esperto di comunicazione considerato l'eminenza grigia del movimento che fa riferimento a Beppe Grillo. Casaleggio prende per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Grillo è un istintivo, e lo conosco bene, non sarebbe mai stato in grado di pianificare una cosa del genere. I politici non hanno bersagli, non lo capiscono, non hanno capito che c'è una mente freddissima, molto acculturata, molto intelligente dietro, che di organizzazione, di dinamiche umane e di politica se ne intende. Immediate le polemiche fra i grillini, soprattutto in rete: chiarirò tutto e darò le dimissioni, i cittadini decideranno se accettarle, fa sapere Favia, ma ad intervenire anche Casaleggio, che assicura di non aver mai influenzato il Movimento 5 Stelle, né definendo liste elettorali o programmi, né infiltrando al suo interno spie, come rivelato da Favia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torniamo ora a parlare dell'intervento del Premier Monti a Bari. Ha parlato dell'evitato tracollo dell'Europa, il Premier, ma anche di crescita. È l'obiettivo centrale del mio governo, ha detto. La crescita è frutto di un'economia che funziona, poi può giovarsi di interventi pubblici, ma bisogna abituarsi alla competitività, che però richiede infrastrutture. Al sud queste servono, ha detto Monti, dai trasporti alla banda larga al ciclo dei rifiuti. Ma nei mesi scorsi, riprendendo il tema della crescita, si è parlato molto anche delle possibilità di crescita offerte dalla riqualificazione urbana. Ecco appunto, oggi entra nel vivo il piano città. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. 2 miliardi di euro capaci di generarne, come indotto, almeno 6 e di creare 100.000 posti di lavoro, un vero e proprio volano di crescita economica integrata. Così il vice ministro ai trasporti e alle infrastrutture, Mario Ciaccia, che sta presentando il piano città al termine della prima di legge che si è tenuta questa mattina. 11 ministeri coinvolti, più regioni, ANCI, associazioni di categoria, ANCE, Confedilizia, Federcostruzioni, Cassa Depositi e Prestiti, Agenzia del Demanio. L'obiettivo del piano città è quello di rilanciare l'edilizia in crisi attraverso il recupero di aree urbane degradate, interventi mirati, ha spiegato Ciaccia, capaci di restituire non solo qualità della vita ma anche di generare economia e socialità in un territorio. I progetti dovranno essere presentati dalle amministrazioni comunali entro il 5 ottobre. La selezione, assicura il Ministero delle Infrastrutture, avverrà in tempi rapidi con apertura dei cantieri entro l'anno. Finora sono 58 le proposte pervenute, equamente distribuite tra nord e sud Italia. La maggior parte dei progetti presentati riguarda l'housing sociale e l'edilizia scolastica. Applaudono al progetto le associazioni di categoria, che però mettono in guardia. Occorre, avverte il presidente dell'ANCE Buzzetti, che il piano decolli e che l'investimento privato abbia la certezza di tempi rapidi. Ed è ormai tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Noi torniamo all'estero, dove prosegue lo sciopero del personale Lufthansa. Oggi circa la metà dei 1800 voli saranno annullati, con conseguenze evidenti anche per i viaggiatori italiani. Giornata pesantissima per il trasporto aereo in Germania, dove uno sciopero di 24 ore degli assistenti di volo, iniziato alla mezzanotte di ieri, ha costretto la Lufthansa a cancellare oltre 1000 voli in tutti gli aeroporti del paese, più della metà del totale giornaliero. 100.000 passeggeri sono coinvolti. La compagnia ha evitato il caos avvisandoli delle cancellazioni di SMS e piazzandoli quando possibile su voli di altri vettori. Quindi disagi, ma niente confusione a Francoforte e a Berlino, dove le sale degli aeroporti erano semideserte rispetto al normale traffico. Il costo per la Lufthansa è stimato in oltre 10 milioni di euro. Lo sciopero è l'ultimo atto di un'avvertenza che si trascina da più di un anno e che aveva già visto due astensioni dal lavoro di hostess e steward nell'ultima settimana. Gli assistenti di volo chiedono un aumento del 5% contro il 3,5% offerto dalla compagnia e la riduzione del ricorso ai contratti a termine. Nel pieno delle difficoltà del settore, Lufthansa, che ha chiuso il primo semestre con una perdita operativa, sta portando avanti un piano di ristrutturazione che prevede tagli di spese per 1,5 miliardi di euro e ha finora resistito alle richieste dei dipendenti. Il sindacato spera che l'impatto dello sciopero di oggi costringa la compagnia a tornare al tavolo del negoziato già nel fine settimana. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Oggi è il 50° anniversario della morte di Karen Blixen, la scrittrice danese, ricordata soprattutto per La mia Africa, romanzo che divenne anche un film di successo, di cui sentite in sottofondo la colonna sonora. Al Festival Letteratura di Mantova si celebra la Blixen con una performance del saggista Luca Scarlini, che al microfono di Alessandra Tedesco spiega quale eredità ha lasciato la scrittrice. La passione del vedere la realtà sotto un'altra luce. Visto che il suo primo libro si chiamava Sette storie gotiche, il gotico va di gran moda da Twilight in poi, quello che lei ci ha insegnato è che nelle storie più ovvie, nei momenti più banali del quotidiano, si può sempre annidare un'avventura che spesso è sotto il segno del gotico, appunto, dell'epifania, della rivelazione. In definitiva, Karen Blixen dice di se stessa che era una strega che aveva votato se stessa Satana, perché avendo per la sifilide perduto la capacità di amare e di avere relazioni con altre persone, dice nelle sue varie testimonianze riportate da persone a lei amiche che in un momento specifico il diavolo le aveva dato il talento e la narrazione di poter trasformare tutto quello che era ovvio in sorprendente. Che tipo di donna era Karen Blixen? Fascinosa, e fascinosa anche nella mettere in gioco il proprio horror, perché Karen Blixen, l'immagine che noi abbiamo è quella di una persona malata che pesava 40 kg, esagerare, uno scheletro, che diceva di se stessa come un personaggio famoso del suo racconto La scimmia, io voglio lasciare di me stessa uno scheletro bellissimo, e che quando andava in giro giocava più o meno a fare la Dark Lady. Siamo allo sport, abbiamo convocato Carlo Genta. Carlo, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, convocati naturalmente alle 14 tutti quanti per una giornata sportiva, per un venerdì sportivo che vivrà su una sfida a distanza serale, perché da una parte alle 20.45 c'è la nazionale di Prandelli che in Bulgaria comincia il suo cammino verso i mondiali del Brasile 2014. Alle 21.45 invece c'è un'altra grande italiana che prova a scalare una montagna. Si tratta di Sara Errani che gioca le semifinali degli US Open contro Serena Williams. Pronostico che sembra chiuso per Sara Errani, ma guai a sottovalutarla. Dunque, doppia scelta anche per i telespettatori. Nazionale di Prandelli che propone, come sappiamo, una coppia d'attacco inedita, che due giocatori che agli europei nemmeno c'erano, come Giovinco e Osvaldo. Vedremo domani chi vincerà questo derby anche televisivo e ne parleremo naturalmente più tardi in Tutti Convocati. Laura. Grazie a Carlo Genta. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. Oggi si chiude il concorso con due film, pochi applausi e parecchi fischi all'anteprima stampa del thriller Passion di Brian De Palma, con Rachel McAdams e Noomi Rapace. Accolto nel silenzio invece Un giorno speciale di Francesca Comencini, storia di due ragazzi, un autista e un'aspirante attrice in una giornata romana. Per Orizzonti invece c'è Salvatore Mereu, adolescenti nella periferia disagiata di Cagliari tra delirio e disperazione, ma raccontata con forza, ironia e leggerezza in Bellas Mariposas, tratto dal libro di Sergio Azzeni. Devo dire, cercando di rimediare una lacuna, perché in Sardegna Bellas Mariposas è un libro di culto e il culto poi è aumentato dopo la scomparsa del suo autore. Sai, a un certo punto, quando poi l'ho letto, sono rimasto folgorato. La grande bellezza, cioè la cosa che più ti conquista di questo libro è il fatto che così ti parli di cose terribili con una leggerezza, una levità che ti conquista. A Venezia anche il professor Girolamo Sirchia per lanciare un corto da lui prodotto e diretto da Pino Quartullo sulla donazione di organi e annunciare un'iniziativa tra salute e cinema. L'emozione nel cervello umano attiva un'area e questa attivazione è abbastanza durevole, dura nel tempo. Abbiamo pensato di sfruttare un po' questo per lanciare dei messaggi di salute pubblica. E allora abbiamo fatto due cortometraggi su due temi di grande rilievo sociale, uno la donazione di sangue e uno la donazione di organi. Nel futuro prossimo vorremmo fare un centro di ricerca per verificare se è vero che questo meccanismo è migliore rispetto a quelli tradizionali. Allora in quel caso si può costituire un centro di formazione dove insegnano gli artisti, insegnano i comunicatori e insegnano gli esperti di salute pubblica. Da Venezia ci spostiamo a Mantova, dove al Festival Letteratura si parla anche di cinema con Emilio D'Alessandro, un nome sconosciuto ma che ha partecipato alla storia del grande schermo. È stato per 30 anni infatti l'autista del regista Stanley Kubrick. Ora ha scritto la sua autobiografia Stanley Kubrick e me. L'ha intervistato per noi la nostra inviata Alessandra Tedesco. Una persona responsabile per tutti, per tutto. Se succedeva qualche cosa, uno dei membri della troupe, lui si preoccupava sia per il medico sia per l'infermiere, per calmare, far sentire quella famiglia comoda, e lui anche si sentiva più agevole e soddisfatto che l'aveva aiutato. Questo è Kubrick, era Kubrick. Amava vedere, chiacchierare con le persone, preferiva via telefono, perché ci sta, non lo so, differente comunicazione via telefono. A lui non gli piaceva, per esempio, ad andare fuori questi pranzi o cene, parties. Odiava i parties. In chiusura la musica, Rihanna aveva il maggior numero di nomination, ma a vincere questa edizione degli MTV Video Music Awards è stata la band inglese degli One Direction, che si è portata a casa tre riconoscimenti: miglior artista, miglior video pop, miglior video da condividere. Rihanna però con We Found Love ha vinto il premio più ambito, quello per il video dell'anno. E per la seconda edizione del GR Spettacoli è tutto. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.